Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, siamo io personalmente dalla ridotta di Viale Monza, qui in diretta su Radio 24, per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Ci siamo, cari ascoltatori, saluto subito in regia il nostro Alpino. C'è Laura Faggin al suo fianco, c'è la nostra redazione Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, e torna con noi, sperduto, non lo so, in qualche ridotta milanese, Mario Calabresi. Buongiorno Mario, eccoci. Buongiorno, ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui riuniti, un tempo si diceva al Braccobaldo Show, tu te lo ricordi questo momento, siamo sì. Riuniti al Braccobaldo Show, siamo qui bolscevichi, menscevichi, ascoltatori, chiamateci ovviamente all'800 24 00 24 o mandateci messaggi, WhatsApp, commenti audio 349 238 6666. Non dimenticate anche la mail, 100milan@radio24.it. Vai Alpino, che ci siamo. Enthusiasm about the future. Tu non lo sai, caro Mario, ma ho tentato il colpaccio dell'ultimo minuto. Io ho detto alla redazione: cercatemi questo emblema, secondo alcuni cattolici, della nuova resistenza. Siamo in momenti di resistenza in generale, poi si avvicina anche il 25 aprile. Sai che c'è questo Don Lino Viola, che è parroco in una frazione di Soncino, parroco di San Pietro Apostolo, 80 anni, che domenica ha celebrato messa per 6 fedeli, poi diventati 12 nel frattempo, ma lui ha detto erano solo 6, poi mentre mi cambiavo in sagrestia si sono materializzate altre 6 persone, e c'è stata l'irruzione dei militari per far sospendere la messa, e lui ha detto è andato avanti con la messa, ha beccato la multa e ha detto non pagate. Non pagate, ha detto ai fedeli, e secondo alcuni è l'emblema della nuova resistenza cattolica contro lo Stato, secondo altri ha violato le regole, banalmente. Te lo volevo chiamare, ma c'è il numero occupato, porca miseria, mi sembra, volevo sentire un po' la sua voce, non so, che tu... No, naturalmente se tu la racconti, dice messa per 6 persone barra 12, arrivano i carabinieri e lo interrompono eccetera eccetera, ti viene istintivo di dire che esagerazione, come quello che è sulla spiaggia, non so più, di Ostia, e arrivano i due poliziotti col quad a multarlo. Naturalmente tutto questo a me, come a te, come a tutti, dice vabbè, ma dai. Però dall'altra parte non si capisce perché, se tutti stiamo a casa, uno se ne deve andare in spiaggia, sì. Perché allora uno gli viene anche un po' di giusta invidia e dice no, scusate, ma allora ci vado in spiaggia allora anch'io, perché io devo sacrificarmi e gli altri no. E così tutti gli altri preti, qualcuno ha fatto delle cose simboliche, ti ricordi, ne parlavamo 2 settimane fa, quel prete che a Pescara, sì, ha fatto nella Domenica delle Palme con la croce, è andato a benedire i portoni delle case da solo. E nessuno lo ha multato, però era da solo. Se tu dici vabbè, non si può dire messa, ma io la dico, va bene. Allora, se la resistenza è liberi tutti, però secondo me non è resistenza. Questo certamente, ma la cosa più interessante è l'idea del disobbedire alle multe, cioè al di là di questo c'è sottotraccia. Beh, diciamo che anche è sui siti è un'antica tradizione italiana quella di disobbedire alle multe, c'è sui siti, sui social, però c'è un po' la tentazione di cominciare a dire ribelliamoci, basta lo Stato autoritario, no? Tu percepisci questi germi un po' magari pericolosi anche, si sentono tantissimo, e si sente già, quando avevamo detto, l'abbiamo parlato tante volte in questo periodo, adesso torna la fiducia negli esperti. Io vedo già però che sta tornando anche una cosa, sta tornando il fastidio per gli esperti, perché sono quelli che ci dicono dovete stare a casa e quindi non ne possiamo più, vabbè, ma basta, eccetera eccetera. Io quello che mi preoccupa, ma in assoluto più di tutto, è se facciamo male questa seconda fase, e devo dire che qualche indicazione di massima purtroppo ci manca, cioè ci manca bene il tracciamento di chi sono i malati, i test, chi può uscire, chi no, in che modo, eccetera, eccetera. È ancora tutto così nebuloso che se uno sbaglia la fase 2 e poi si trova nel dramma di rivedere partire il contagio, perché noi non dimentichiamoci una cosa, non è che la malattia è scomparsa, il virus, o è sconfitto. No, no. Il virus semplicemente ha diminuito la sua diffusione perché siamo stati a casa. Ma se domani mattina noi tornassimo a fare la vita di prima anche solo per un giorno, tra 3 settimane risaremmo alla situazione di Bergamo, risaremmo lì. E allora io penso che però psicologicamente una seconda quarantena totale sarebbe veramente... quella sarebbe devastante, ma psicologicamente devastante. Sì, sì, sì. Quindi sì, sì. Da questo punto di vista, certo, anch'io ho dei momenti in cui penso: no, basta, adesso esco, vorrei prendere la bicicletta, voglio fare, evadiamo, eccetera, eccetera. Il problema andiamo a messa da un minimo di responsabilità. No, tu bolscevico a messa, sì. No, io magari ci vado. No. Vabbè, no. Allora, la questione comunque sì, c'è uno stato confusionale, questo l'abbiamo detto un po' più tante volte, ma non è neanche facile gestire questa fase 2. Per esempio oggi ho letto, dopo ne parleremo più avanti, che secondo una ricerca in Francia i bambini non sono poi così contagiosi, per cui Macron l'11 maggio vuole riaprire le scuole. Invece da noi si dice no. Sai, non che, si riaprono le scuole perché i bambini sono contagiosi. Che cavolo, si capisce niente. I bambini sono in assoluto quelli che si ammalano di meno. Sostanzialmente questa qua è una malattia che fino ai 20 anni... Ma sono contagiosi o no? Questo è il tema. Il problema è come la portano in giro. Io oggi nella newsletter intervisto questo, forse il massimo esperto mondiale di diffusione delle epidemie, che è un italiano che sta a Boston e dirige un centro che fa su questo, fa il consulente di metà dei governi, tra cui la Casa Bianca, eccetera, eccetera, su come si sviluppano le epidemie. E lui dice: le scuole si chiudono non perché i bambini sono più contagiosi degli altri o meno contagiosi, ma si chiama Vespignani, Alessandro Vespignani, ma perché quando un bambino va a scuola incontra come minimo 25 altri ragazzini con cui ha contatto, più gli insegnanti. Esatto. Una famiglia con 2 figli si porta a casa ogni giorno 50 contatti. Un adulto per fare 50 contatti ci mette molto più tempo. I genitori li accompagnano, poi si fermano a parlare. La scuola è il più grande moltiplicatore di contatti che ci sia nella nostra società. Per quello si chiudono le scuole. Non c'entra se i bambini stanno bene o male, ma perché è il più grande moltiplicatore di contatti. Ma vedi, tu giustamente, questo te lo dice un massimo esperto, c'è una ricerca dell'Alta Savoia che dice no, non sono poi così contagiosi in Francia, per questo Macron apre le scuole. Vai a fidarti, poi la scienza non è univoca, ovviamente, la scienza dibatte. Ma fanno, devo dirti la verità, fa ridere un mondo in cui non si cercano delle direttive scientifiche perlomeno il più comune possibile, ma tu mi stai dicendo l'Alta Savoia, che vale come dire l'isola sud della Nuova Zelanda propone di fare così, e De Luca in Campania dice io mi muoverò in chiudo un altro tutto, modo, cioè siamo al vale tutto, Però guarda che Mario, quando ci sarà questa fase 2, non sapremo bene, ma ci sarà, ci saranno anche delle cosiddette nuove città. Si sente tanto parlare di queste nuove città, basta ora di punta, Sala che dice dobbiamo spalmare gli orari durante tutta la giornata, chi propone di lavorare su 7 giorni. Fuxas, la grande architetto, ha detto fate case da 80 metri quadri, e oggi Stefano Boeri, altro grande architetto, ha detto viviamo nei borghi, ho capito, ma 80 metri quadri se poi costano 5.000 euro a metro quadro, le compri tu, voglio dire. Ma quindi spalmando il lavoro su 7 giorni vuol dire che uno nessuno e 100.000 sarà dal lunedì alla domenica per settimane. Esatto, però aspetta, prima dell'ospite, guarda, il colpaccio, Don Lino Viola, buongiorno, parroco in frazione di Soncino. Lei è considerato da alcuni la prima resistenza cattolica allo Stato. C'è Mario Calabresi che l'ascolta, io sono buongiorno, Alessandro Milan. Don Lino Viola, come mai lei si è rifiutato di sospendere la messa all'arrivo dei militari? Dunque, i fatti sono questi. Dunque, Io, come tutte le altre domeniche, è vero, sono uscito per celebrare la Santa Messa e avevo predisposto sei accoliti, cioè il lettore, l'organista, eccetera, eccetera, come è stabilito anche dal decreto del Ministero degli Interni. Ecco, solo che si erano, diciamo, sono arrivati in 12 persone. Si sono arrivati quindi noi in eravamo in chiesa 13 persone, ma comunque il fatto è questo: dopo l'omelia, anzi durante l'omelia, entrano uno della protezione civile e due carabinieri. Il carabiniere al momento dell'offertorio viene all'altare e mi mostra il decreto ministeriale del 25 marzo, pubblicato sulla Gazzetta del 25 marzo 2020, dove all'articolo 1, dal titolo misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19, alla lettera H si dice sospensione delle cerimonie civili e religiose. Voi immaginate la scena, cioè durante l'offertorio, il momento insomma più sacro forse, arriva il comma 1, articolo 7. Davanti questo coso, naturalmente evidenziato, perché quello di evidenziatore, alla lettera H, sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati. Ma lei che ha fatto? Cosa gli ha detto? Ecco, vada via. Certo, ho detto, ma questo è falso, perché c'è già un decreto successivo del 27 di marzo del Ministero dell'Interno, che era inviato in questo caso a Monsignor Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, dove si dice, si precisa, non sono da intendersi le deviazioni, vero? Le celebrazioni. No, ma lei è preparatissimo, cioè sapeva tutte le norme praticamente. Sì, possono continuare perché le avevo in mano, perché se l'ho fatto è perché possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti, eccetera, eccetera. In celebrazione quindi lei poteva senza il concorso dei fedeli limitare ai soli celebranti e dagli accoliti necessari. Cioè poteva rispettando rispettando lei poteva le dire la messa, ecco. Ma il diciamo così, la messa l'articolo cioè il decreto precedente che era del 25 di marzo. No, ma Dollino, lei poteva dire la messa per poche Dollino. Persone. Ma certo, io avevo il diritto, lui mi contesta il diritto di celebrare. Stando a cioè Dollino, lei poteva dire messa ma a porte chiuse. A porte chiuse per poche persone. Senta, no, però aspetti Dollino, il punto fondamentale è questo: perché lei ha detto non pagate la multa? Questa è una, come dire, un atto di bene. Non ho detto che ai miei fedeli ho detto noi abbiamo 30 giorni per pagare la multa. Sì. Ecco, perché già due avvocati ci sono messi a disposizione, perché dice qui c'è una chiara violazione di un suo diritto. Quindi prima di pagare aspettate che noi faremo, naturalmente adiremo alle vie legali. Mario ha trovato un tipo tosto, un parroco tosto, Stato ha trovato un parroco tosto. Io sono un parroco che stavo rispettando il mio diritto di celebrare, poi potevano contestarmi le sei persone in più, cioè perché c'era il cosiddetto popolo, le sei persone. Noi possiamo ma erano sei persone. Tra l'altro erano sei persone di cui io stavo ricordando i loro cari morti, non per Covid, come ha detto il... Certo, però... Quindi non c'erano persone infette in chiesa, erano papà, mamma e due fratelli che erano morti diversi Dollino Viola, facciamo così, vedremo come va la multa e il ricorso. Intanto no, l'abbiamo pizzicata al volo, noi lo ringraziamo. Oh Mario, qua insomma c'è da capire, però aspetta perché noi avevamo un ospite sulla questione delle città, che è Matteo Colleoni, docente di politiche urbane e coordinatore del Mobility Manager all'Università Milano Bicocca. Buongiorno professore. Professor Colleoni. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e i suoi ospiti. Ecco. Buongiorno. Allora, ci aiuti a capire tra tutte queste smart city, turismo locale, prossimità, mobilità, esattamente che l'ambito su cui dovremo cambiare di più al più presto, qual è? Innanzitutto si tratta di un ambito in cui avremmo dovuto cambiare già anche prima della situazione dell'epidemia per rendere più visibile le nostre città. Quello che adesso è il tema, che in realtà è un tema classico, già trattato molto in passato, delle desincronizzazioni degli orari della città, che è un tema di grandissima importanza, che con tante sperimentazioni in giro per il mondo, e consiste fondamentalmente nel desincronizzare per quanto possibile gli orari dei servizi al fine di distribuire meglio la domanda di mobilità affinché non ci siano più soltanto i picchi di punta classici dalle 6 alle 9 punta, del mattino e dalle 5 alle 7 del pomeriggio, che ci saranno sempre, guardate, nel senso che i picchi ci saranno sempre, dei picchi di qualsiasi fenomeno, anche di mobilità, poiché comunque le società stanno in piedi perché ci sono delle forme di sincronizzazione e anche le nostre città. Tuttavia è opportuno che contesti complessi come quelli urbani abbiano una, dei processi di desincronizzazione, di cui appunto stiamo parlando in questi giorni, si è espresso Sindaco sì. Sala e altri sindaci in giro per l'Italia. La mobilità è l'altro no, è certo, come farle la prima cosa, perché cambiare le aperture delle aziende, le aperture degli uffici pubblici, per esempio. No? Innanzitutto alcune misure sono possibili, vanno messe in pratica. Noi abbiamo una vecchia legge, che comunque è ancora attiva, che è la legge dei mobility manager, ovvero che prevede che sia le istituzioni che le imprese si dotino di mobility manager, coloro che devono governare la mobilità dei dipendenti della propria azienda, della propria istituzione. Nel mio caso appunto sono mobility manager accademico e abbiamo un coordinamento di quelli accademici. I mobility manager possono fare molto, possono conoscere innanzitutto le origini e destinazioni dei propri dipendenti e fare dei piani di spostamento casa lavoro affinché non ci siano congestioni. Però mi scusi, Colleoni, cioè se non so, se le scuole non apriranno al pomeriggio in doppio turno, se gli uffici pubblici non riescono a cambiare gli orari, se le aziende fanno fatica a cambiare gli orari, cioè come si fa? Si può agire fino a un certo punto? No? Evidentemente la domanda di mobilità è una domanda, noi diciamo, derivata, ovvero che nessuna parte del turismo fa mobilità priva di senso, è mobilità finalizzata ad andare a lavorare, andare a scuola o andare a prendere dei servizi o acquistare dei servizi, e di conseguenza occorre che venga fatta un'azione concertata, ed è quello che si sta cercando di fare in questo momento, si è anche fatto un po' in passato, tra gli attrattori, quelli che attraggono i flussi di mobilità che sono appunto le scuole, le università, le aziende, e dall'altra parte invece i gestori del servizio di trasporto pubblico. Sì. Le sperimentazioni sono state fatte anche efficaci. Oggi si parla appunto anche in giro per il mondo, pensiamo al caso di Singapore, per esempio degli ingressi a blocchi, ovvero pensare ad almeno tre turni di ingresso a Singapore in questo momento, che è un po' sotto i riflettori mondiali, anche se è un caso un po' particolare in quanto è un po' una città-stato, per cui rappresenta poco le altre grandi metropoli mondiali. Tuttavia Singapore è un caso particolare perché, voi sapete, penso che se ne è parlato anche in radio, a differenza delle altre istituzioni mondiali, Singapore non ha chiuso tutto, non ha chiuso la produzione, sono andati avanti a fare tutto e hanno però pensato dei turni di ingresso, per esempio almeno tre turni di ingresso degli operai oppure degli impiegati, affinché ci sia mai più del 50% di ingresso per turno. Ma questo, Mario Calabresi, tu te la vedi questa nuova città? Cioè, secondo te saremo disciplinati come italiani ad abituarci a vivere così? Non avremmo mai detto che avremmo rispettato così bene le code. Oggi vedi queste code distanziate che neanche a Londra ai vecchi tempi. È molto difficile, diciamo così, che tutto ciò di cui si parla prevede pazienza e disciplina. Questa è la sfida, perché la pazienza, perché alla fine i mezzi pubblici, per quanto potranno aumentare le corse, potrai distribuirli, come riesci a togliere l'ora di punta? Facendo le code, distanziamenti, non può salire più di tot gente sulla metropolitana, per cui tutti i nostri tempi comunque saranno dei tempi dilatati in questa il conta persone, il conta biglietti. La mobilità come si evitano, a parte, come ci ha detto il professor Colleoni, cioè con lo scaglionamento degli orari, le ore di punta, per esempio, bisogna inserire il conta biglietti, il conta persone, le aree dove stare seduti solo sui mezzi pubblici? E so che Astra in questo momento, che è l'associazione dei trasporti, ha già elaborato un documento in cui prescrive una serie di comportamenti che sono quelli che un po' lei adesso ha sintetizzato, ovvero degli ingressi sui mezzi di trasporto appunto scaglionati, delle distanze obbligatorie, un numero massimo di presenze. Evidentemente questo è l'obiettivo, dopodiché come realizzarlo sarà molto impegnativo, perché ci sarà anche un aumento molto alto del personale di controllo e poi l'obbligo di salire su un mezzo di trasporto con le mascherine di protezione. Queste sono le indicazioni che stanno uscendo da Astra. Temo che soprattutto temo che sarà anche un aumento di costi, perché per esempio bisogna aumentare le corse dei mezzi pubblici, però vedremo, insomma, questa città nuova prima o poi la vedremo, perché la fase 2 si aprirà. Io ringrazio il professor Matteo Colleoni. E adesso dobbiamo, se volete, cari ascoltatori, grazie anche a te Mario, fare un passo indietro, perché tu qualche giorno fa ci hai raccontato della casa di riposo Verdi di Milano, ne hai raccontato nella tua newsletter, una casa di riposo nella quale si sono blindati e non ci sono stati contagiati e morti per Covid. Allora ci ha contattato. C'era stata una coppia di cui lei si era ammalata perché era in ospedale e poi è morta in ospedale, ma era in ospedale precedentemente, il cui marito, che era andato a trovarla in ospedale, era rimasto contagiato e poi era stato isolato. Sì. E ci ha contattato come ascoltatore il signor Claudio Marzorati. Claudio da Milano, buongiorno, buongiorno, salutiamo, grazie signor Claudio, buongiorno, perché ci ha raccontato e ha voluto anche contattare Mario Calabrese e dire: guardate che mio padre era lì dentro ed è morto in questi giorni. Di questo ovviamente ce ne dispiaciamo moltissimo, signor Claudio. Quando è successo? È mancato il 25 marzo. E ci dica, perché voi familiari dite, sostenete, avete un sospetto, ecco, che possa essere la causa proprio il Covid. Beh, certo, perché gli sintomi sono inequivocabili, nel senso che lui ha avuto tosse secca, febbre e dopo qualche giorno insufficienza respiratoria, polmonite, dapprima soltanto bilaterale, poi l'ultimo giorno l'ultimo giorno bilaterale, quindi non c'è stata una diagnosi strumentale, in quanto, come tutti, non ha potuto fare un tampone, però la diagnosi clinica non lascia dubbi. Voi non avete questi dubbi, anche se, ecco, Mario, mi sembra che la struttura invece con i medici abbia detto non abbia certificato, insomma, il decesso per questa causa. I medici non possono certificare se non hanno una diagnosi, il tampone, un tampone strumentale, cioè un tampone. Certo. È evidente però che in Casa Verdi c'è stata una vera e propria emergenza, infatti tutto credo sia cominciato dal giorno 8 marzo, festa della donna, di cui io ho foto e video, perché c'è stata una festa appunto con tutti gli ospiti e con personale, e io ho foto dove si vedono gli ospiti e il personale senza mascherine, abbracciati, che festeggiano, che cantano e che ridono. E dopo appunto si è ammalata quella signora di cui avete appena parlato, e il marito, mio padre mi riferiva, perché era lucidissimo, mi riferiva che il marito di questa signora, che mangiava a tavola con lui, era molto adombrato, non parlava più, e quindi mio padre aveva intuito che la moglie stesse molto male. Non so quando sia morta, ma presumo in quei giorni o nei giorni successivi. Fatto sta che il giorno 14 marzo anche questo signore è stato ricoverato in ospedale, e da quel momento hanno chiuso tutti gli ospiti nelle camere per evitare il contagio. E il giorno 17 marzo, che ricordo benissimo perché era il giorno del mio compleanno, papà ha cominciato ad avere la tosse e lucidissimo com'era nonostante l'età, mi ha detto al telefono: so già quale sarà l'epilogo. E io speravo che non fosse papà. Prego? No, quanti anni aveva il papà? 93. Quanti anni aveva suo 93. Papà? 93 anni. 93. Ecco, poi dal giorno 18 la situazione è cominciata a peggiorare, e alla febbre si è aggiunta alla tosse si è aggiunta la febbre, finché a un certo momento, intorno a venerdì, sabato 21, è stato veramente privo di forze, appunto, che cadeva dal letto, eccetera, e quindi è stato portato in RSA. In quei giorni precedenti ovviamente il medico, nella speranza che si trattasse di una forma batterica e non virale, gli ha somministrato l'antibiotico, la cacitirina, ma purtroppo essendo una forma virale, non, ecco. Nei giorni questo è come dire il... Ecco, vai Mario. 22, signor 23, Marzorati, ma io le volevo chiedere questo. No, scusi, un attimo. Vorrei finire perché sennò poi si perde il filo. 22, 23, 24 marzo la situazione è precipitata. gli è stato somministrato l'ossigeno, febbre oltre il 38 e lui lucidissimo. E qui devo ringraziare la dottoressa Monteanu che l'ha curato, perché è stata, sì, oltre che competente dal punto di vista medico, estremamente umana, e mi ha fatto vedere papà attraverso le videochiamate. E quindi io ho seguito mio padre fino all'ultimo, e lui era perfettamente cosciente di morire e di essere stato contagiato, almeno certo, questo quello che lui diceva. Bene. È mancato mercoledì 25 marzo alle 8:20 di sera. Ecco, questa è la nostra storia. Io non voglio accusare nessuno, assolutamente. No, infatti, ma lei dice non accusa, però la famiglia dice siamo, come dire, abbiamo delle convinzioni dai sintomi che possa essere questo, Mario. No, io gli chiedevo alla fine che cosa è che la disturba e come è stato trattato dalla struttura. Secondo lei poteva essere trattato diversamente? No, per carità, non voglio assolutamente dire una cosa simile, perché non ho gli elementi, non ho assolutamente, cioè sarebbe ingiusto se io accusassi qualcuno di quello che è successo. Il virus è una cosa estremamente subdola che può penetrare ovunque e ci siamo trovati tutti impreparati ad affrontarlo, quindi non, ecco, l'unica cosa vorrei che emergesse la verità, nel senso che in giro non si dica che è stata un'oasi felice dove nessuno si è ammalato, salvo quella signora che è morta e di cui si può parlare perché ha avuto il tampone. Bisogna, cioè, voi vorreste che venisse riconosciuta anche che vostro padre, altre vittime, perché poi adesso ovviamente senza fare nomi, però i sospetti stanno aumentando, nel senso che probabilmente anche per il fatto che noi ci siamo scoperti, abbiamo manifestato a tutti quella che è stata la nostra tristissima esperienza. Certo. E ora piano piano stanno prendendo coraggio anche altre persone. Va bene, noi ecco, signor Claudio, facciamo tempo a dire chi era suo papà. Sì, chi era suo papà, esatto, perché se non sbaglio era un musicista. Sì, mio papà è stato un pianista piuttosto famoso, già dal 1950 come vincitore del concorso internazionale Chopin di Roma. Ha fatto una carriera concertistica nei maggiori teatri italiani e europei e è stato docente di pianoforte al Conservatorio di Torino per 10 anni, e poi vinse il concorso come direttore della Civica Scuola di Musica di Milano, dove è rimasto per 30 anni fino al pensionamento, e ha portato la scuola ad un livello molto alto, direi quasi competitivo con i conservatori. Ecco, questo è stato quello che potevamo fare, signor Claudio, è un piccolissimo ricordo tramite la sua voce, ecco, il suo papà. Noi la ringraziamo, io mi devo davvero fermare nel ringraziare anche Mario, io ti saluto. C'è la nuova newsletter che trovate proprio fresca di questa mattina su mariocalabresi.it. Ci troviamo presto. Nel ringraziare il signor Claudio, nel ringraziare Mario Calabresi, andiamo un attimo in pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. È incredibile, questo prete vuole aver ragione, è incredibile. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Il prete di Orzi Nuovi si uniformava alle leggi italiane e quindi le rispettava. Se non gli vanno bene le leggi italiane, va a vivere in Vaticano e si uniforma a quelle. Poverini, ho ascoltato in radio, i nostri calciatori iniziano ad essere depressi. Poverini, poveretti! Ce la faranno sti calciatori? Lo so. Sono depressi, anch'io sono sobbalzato sulla sedia, poveri calciatori depressi, la follia della Serie A che vuole tornare a giocare a calcio, la follia del calcio che vuole tornare, una roba pazzesca secondo me, tra le follie che racconteremo del coronavirus si ferma tutto ma il calcio no, e io adoro il calcio, amo il calcio. Leonardone Manera, buongiorno qua. Io colgo nei messaggi degli ascoltatori, colgo che stiamo tornando alla normalità, perché stanno tornando, sì, le polemiche, senti com'è la verve, no, di queste persone, e il ritorno polemica è il segno finalmente del vero ritorno, la fase 2 è quella, il ritorno della polemica, è quello. Tu devi vedere i messaggi dopo l'intervento di Don Lino Viola, il prete che non era di Orzinuovi, dico l'ascoltatrice, ma di Soncino. Questo pretaccio, una mi ha scritto, questo pretaccio, per la verità lui hai visto come era informato con i decreti ministeriali sull'altare, a fianco alle ostie aveva i decreti ministeriali da contestare al carabiniere che ha fatto irruzione durante l'omelia, stupendo, stupendo. È la fase 2, anch'io voglio polemizza anch'io. Dai, polemizza, fai una polemica. Con Mario Calabresi voglio polemizzare, che non può rispondere, dai. Quindi è il modo migliore per polemizzare. Sei veramente un codardo. La codardia di Manera. Cioè, io voglio polemizzare. Lo sapete che poi alle 3 lo chiama, direttore, come stai? Volevo sapere. Sì, io polemizzo perché lui diceva prima che adesso noi stiamo cominciando a non sopportare più gli esperti, no? Perché invece è un atteggiamento sbagliato, diceva lui. Ma il problema secondo me è che noi non li cominciamo a non sopportare più perché non ci danno notizie certe, insomma, no? Nel senso che essendo esperti ci aspetteremo da loro qualche delineare in modo preciso la situazione, e invece questa cosa è sempre un po' claudicante. Ma secondo allora, me per dopo un esperto... Un espertone verrà a trovarti anche a casa tua, forse. No, ti sbagli, se ho capito non faccio male. Quel personaggio oggi, hai capito male. Porca miseria, vabbè, ma tu, ma senti, ma vattene a quel paese, vattene no, a quel no, quindi paese. Dico, la nostra perplessità nei confronti degli esperti è proprio perché in quanto tali non riescono a dirci nulla di preciso, e noi vorremmo qualcosa di preciso, e allora cominciamo a diventare un po' più complottisti, ecco, questa è la mia idea. Va bene, allora, facciamo un'altra bella polemica, salutiamo Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista e scrittrice. Buongiorno Cristina e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Oh dai, facciamo un'altra bella polemica. Allora Cristina Sivieri Tagliabue che si occupa di tematiche legate al mondo femminile, si mobilita molto con varie associazioni e anche con mobilitazioni popolari. Allora avete fatto una petizione, adesso ci devi dare tutti gli estremi, che è arrivata ieri a 65.000 firme, forse adesso è salita un po', no? 70.000 per la precisione, abbiamo appena ricercato 70.000 firmatari. Siamo un comitato in realtà di genitori, insegnanti, magistrati, giornalisti, abbiamo firmato questa lettera in una giornata, soltanto 2.000 persone prese proprio a manina ad una. Certo. Il tema è i bambini, la scuola, il che fare, cioè cosa chiedete voi in concreto? Diciamo, sulla scorta di quello che hanno fatto nei paesi europei di cui parlavate prima, ovviamente, la Danimarca il 15 aprile ha riaperto le scuole, a Copenaghen comunque, o la Norvegia, hanno aperto gli asili nido, apriranno il 27 aprile, in Spagna a maggio, in Francia anche lì si parla di una data intorno all'11 maggio, in Germania 4 maggio. Noi chiediamo delle cose molto molto banali e molto semplici. Ma è tutto il fatto di bilanciare il diritto alla salute con tutti gli altri diritti fondamentali della persona, tra cui il sacrosanto diritto all'istruzione, perché secondo noi comunque il computer a lungo andare non può sostituire a quello che è la scuola, l'incontro sociale con gli altri bambini, ed è quello anche da una ricerca che invece ha fatto un altro comitato, che diamo voce ai bambini, tra l'altro, che ha raccolto in una giornata lunedì 70.000 risposte, viene fuori, cioè la cosa che manca di più alle persone è assolutamente la relazione interpersonale, la soddisfazione, la socializzazione, più addirittura dell'ora d'aria e degli spazi aperti. La gestione didattica a distanza non è vista così male, ma il bonus babysitter, dall'80% di quelli che hanno risposto a come dire, le nostre domande, sono insoddisfatti perché perché, come dire, ci hanno relegato in casa, ci hanno costretto, come dire, a avere tantissimi ruoli, dalla donna delle pulizie alla cuoca, all'educatrice e poi anche ancora mamma lavoratrice. Questi lavori di solito li fanno quattro persone, noi li stiamo facendo tutti insieme, non siamo genitori che si lamentano affatto del fatto di essere multitasking, lo stiamo facendo con grande impegno, soltanto che noi vorremmo un'informazione tempestiva e chiara ovviamente dal governo, perché sì, come tutti, cioè capire che fare con le scuole, quando riaprono, se riaprono, se i genitori devono andare a lavorare, cosa fare dei figli, soprattutto i figli più piccoli. Dov'è questa petizione? Così diamo gli estremi se qualcuno volesse firmarla. Allora, non abbiamo scelto un sito un po' battagliero per la raccolta della petizione, che si chiama Avaaz. Link esatto, poi se volete lo trovate sulla mia pagina di Facebook, se cercate su Facebook Cristina Siveri Italia Bue lo trovate, lì c'è il link, però altrimenti potete andare su Avaaz oppure anche il sito di Repubblica, del Corriere della Sera hanno comunque parlato di noi e lì c'è il link. Per noi è molto molto importante parlare del fatto che le scuole devono essere riaperte prima di settembre, cioè noi come tutti gli altri paesi europei noi desideriamo che almeno i nidi e le materne comincino adesso, con delle modalità ovviamente tutte da studiare. E qui ovviamente io devo dire che da tre giorni dico, e faccio questa domanda ma non ho una risposta, sono pazzi in Danimarca, in Francia, in Germania, adesso forse in Spagna, sono avventati oppure sono più ligi e rispettosi? Adesso si parlava di fare le scuole nei teatri, visto Leonardo, visto che i teatri sono vuoti, sono inutilizzati, nei teatri, nei cinema, non lo so. Utilizzando molto gli spazi poi aperti. Poi se piove è un problema. Ma comunque, cioè, ci saranno delle soluzioni? Perché gli altri le trovano e noi no? Ma rifaccio la domanda, sono avventati gli altri? Non lo so, qua forse per i famosi esperti citati da Manera dovrebbero dare delle risposte. Noi pensiamo che in realtà, cioè noi sappiamo in realtà che i politici si stanno impegnando per trovare delle soluzioni, ci hanno invitato a diverse tavole rotonde, nel senso che adesso li stiamo proprio incontrando. La questione è che in realtà c'è una questione sindacale della dirigenza scolastica. Immaginatevi come in Lombardia, per esempio, i dirigenti sanitari sono in questo momento inquisiti e in grossissima difficoltà. Lo stesso, io penso che ci sia una classe professionale che in questo momento ha delle paure. No? Delle paure giuste, però è corrette, perché no? Salvini stava proponendo il decreto, no? Per in qualche modo togliere la responsabilità ai direttori sanitari, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso penso che ci siano proprio delle resistenze dal mondo della scuola. Dall'altro ovviamente, siccome non abbiamo delle ricerche e degli studi, adesso è la rincorsa a chi ha lo studio migliore, no? Quindi io leggo ieri sul Corriere, leggo sul Corriere o anche sul Mattino, no? Che c'è il famoso studio cinese e poi c'è la cittadina in Francia, no? Che ha questo... In Alta Savoia, sì, in Alta Savoia dicono che i bambini non sono contagiosi, calabresi, oggi è intervistato per la sua newsletter un docente famoso a Boston, dice che i bambini sono molto contagiosi, non si capisce più e poi, niente. Esatto, c'è l'associazione pediatrica che invece si arriva e dice, ah no, assolutamente, non bisogna in alcun modo mettere i bambini a contatto con gli altri. Noi ovviamente non siamo gli scienziati, le evidenze scientifiche ce le aspettiamo dagli esperti e ci aspettiamo ovviamente che arrivino in tempi brevi per permetterci anche di avere una prospettiva, perché in questo momento quello che ci hanno tolto è proprio la prospettiva. L'idea è questa, la chiarezza e la prospettiva. Facciamo così, io direi che Cristina. Sentire solo la parola in tempi brevi è un'utopia, sentire questa frase. Sì. Infatti un ascoltatore ci scrive, siamo avventatamente lenti, questa è la sintesi di un ascoltatore. Facciamo così, nel ringraziare Cristina Sivieri Tagliabue, la petizione la mettiamo anche sul nostro sito, così almeno chiunque volesse controllarla, volesse firmarla, sottoscriverla, la trova anche lì. Andiamo... Secondo me bisognerebbe creare una task force per risolvere un po' il problema. Lancio questa idea innovativa.

con i bimbi piccoli che urleranno tutto il tempo per riunirsi ai bimbi che vedono negli altri box, gridando, urlando, piangendo, chiedendosi perché devono essere sottoposti a quella terribile tortura. Inizialmente proverà il padre a giocare col bimbo, magari a biglie, ma il bimbo rifiuterà quel gioco, ricordo di un'infanzia, di un'Italia che non c'è più. Poi il padre comincerà a sbuffare più del figlio, lamentandosi a voce non altissima, ma abbastanza per farsi sentire dalla moglie. Moglie che a quel punto subentrerà nella situazione, dicendo al marito un po' stizzita: «Vai, vai pure a fare il bagno, ci penso io». Parole apparentemente innocue, ma nelle quali si coglie un disprezzo senza ritorno. La moglie proverà a sua volta a tenere a bada il o i figli, anche lei però con scarsi risultati. Dopo pochi minuti cederà, anche psicologicamente, e consegnerà al figlio il telefono, ancora di salvezza, ma anche zavorra di sensi di colpa per i genitori. Arriverà poi la sera, col figlio stremato per il calore che inevitabilmente si sarà sviluppato dentro al box di plexiglass. Un po' di febbre, qualche pianto e soprattutto il muro di silenzio della moglie, che sarà ormai giunta a disprezzare profondamente il marito. Il ritorno a casa non risolverà la situazione, perché si sarà ancora costretti a una specie di convivenza forzata, seppure meno pesante di quella che stiamo vivendo adesso. Insomma, d'estate spesso nascono nuovi amori. La prossima estate probabilmente bisognerà rimandare, ma tra due stati di amori ne nasceranno molti di più, perché presumibilmente ci saranno molte più persone libere, tutte quelle che non avranno retto al devastante impatto dell'imminente agosto da coronavirus, in cui, oltre all'incertezza per il futuro, dovremo anche subire la certezza dell'afa, non solo fisica ma soprattutto mentale. Però ne usciremo anche dall'estate, single probabilmente, ma ne usciremo. Vabbè. Un po' di amarezza c'è, però adesso voglio dare spazio a un ascoltatore libraio. Allora, intanto ci ha scritto da un posto meraviglioso che ho avuto la fortuna di visitare, Bagno Vignoni, Siena. Simone. Buongiorno Simone. Sì, ciao, buongiorno. Simone Milano, Gallerini, buongiorno. Titolare della libreria Librorcia di Bagno Vignoni. Allora, Simone ieri mi ha scritto un'accurata mail o un messaggio su Facebook dicendo: mi potete aiutare? Perché allora, è una libreria piccolina, indipendente, immagino, Simone. Sì, sì, è una libreria molto piccola, 60 metri quadri. Però è posizionata proprio accanto al vascone di Bagno Vignoni. Bello, vascone sì, di Bagno, si chiama proprio così, non sapevo il come vascone. Definirlo. Meraviglioso, sì, nel centro di Bagno Vignoni, il vascone. Sì, che non ha una piazza, ma al posto della piazza c'è un vascone di acqua termale. È una cosa credo unica, cioè, sì. Adesso non lo so, è meravigliosa se capitate da quelle parti, certo non adesso perché non si può. Ci si può immergere o è solo visibile e non ci si può immergere? No, non ci si può immergere ormai da tantissimi anni, credo sia un'ordinanza ormai degli anni 60. Però ci sono le terme, 1900, ci sono le terme a Bagno Vignoni. Sì, ci sono tre strutture termali molto grandi. Però nel 1983 Tarkovsky, il regista russo, ci ha girato Nostalgia e quindi loro la è diventata immersa. loro sì. Però Simone mi ha scritto dicendo: ragazzi, è una libreria piccolina, adesso siamo tutti chiusi, però facciamo... ha usato questa bella parola, ce la facciamo coi mezzucci, cioè consegniamo a domicilio dei libri, e allora ha detto: se magari ci aiutate un po' a farci conoscere, ecco qua Simone, fai un appello agli ascoltatori di zona, chi volesse comprare un libro si può alla Librorcia di Bagno Vignoni, vai. Sì, io d'altronde, come tutte le piccole librerie indipendenti, io non ho dipendenti, sono solo io che lavoro qua. E non ho una struttura di e-commerce, non ho mai attivato il business online, quindi il mio rapporto è quello con il cliente fisico, tradizionale, cioè per lo più devo dire i turisti che vengono nel borgo. E nel momento in cui è successo questo disastro pandemico, così ovviamente anche io ho reagito all'inizio come tutti, ho minimizzato sbagliando, poi mi è presa FIFA, tanta FIFA, e, e quindi ho serrato tutto. Poi è arrivata la terza fase, e la terza fase è quella di un'altra grande paura, ovvero quella di non riuscire, no? Poi a riaprire la libreria. E allora, questo devo dire anche grazie a un'iniziativa che voglio segnalare, che è quella di hashtag Libri da Asporto, che è una società di promozione bolognese che ha messo insieme un sacco di editori, tantissimi editori, e ha dato modo ai librai indipendenti come me di fare le spedizioni a costo zero. Perfetto. Quindi si può prendere un libro alla Librorcia di Bagno Vignoli. Come si fa tecnicamente? Cosa si fa? Si chiama? Dicevo, dato che non ho un e-commerce, bisogna chiamare il libraio per telefono. Bisogna scrivergli una mail, bisogna contattarlo su Facebook, su Instagram, su Twitter, su tutti i canali che ormai ci sono. Sono tantissimi. È facile online trovare i miei contatti, perché basta scrivere libreria Bagno Vignoni, ci sono solo io. Perfetto. Sono monopolista, quindi. Allora stupendo, il monopolista di fronte al Vascone. Allora facciamo così: Simone Gallerini, grazie, lo trovate Librorcia di Bagno Vignoni, comunque la libreria di Bagno Vignoni, Siena, ovviamente non l'ho detto, provincia di Siena. Comprate un libro da Simone e cercate di aiutarlo. Noi andiamo al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, dove sono le tax force? Secondo me sono andate al mare. Prima che aprono arriva tanta gente. Io consiglierei ai calciatori di leggersi qualche buon libro. Servirebbe, anche perché fra di loro sono pochi laureati. Allora, la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan, ci scrive un ascoltatore, caro Leonardo Manera, ricordate per cortesia che oggi è il Natale di Roma, è vero, anche se la città è ridotta male, scrive sempre l'ascoltatore, buon Natale di Roma a Roma. Hai sentito che è rinviata l'Oktoberfest? Sì, ma è incredibile. Invece la Serie A vuole giocare. Tutto rinviano, le Olimpiadi, tutto. Invece la Serie A, depressi. Loro vogliono scendere in campo. Incredibile. Notavo che è il primo evento post-estate che viene rinviato. Quindi, insomma, non so se essere felici di questo. Ecco. No, felici assolutamente no. Felici assolutamente no. Un po' preoccupati, ecco. Io invece non so, sono perplesso, non ho ancora una posizione nei confronti del sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Sai cosa ha fatto? Si è tagliato la barba, si è camuffato, si è messo la mascherina, si è messo il cappellino per andare a controllare nei supermercati che le persone che hanno usufruito dei buoni spesa da parte del comune li spendano correttamente. Evidentemente, non lo so, ci sarà la soluzione 2 se il sindaco trovasse qualcuno che sta spendendo in maniera inopinata il buono spesa del comune, potrebbe utilizzare il mitologico metodo di Giuseppe da Reggio Calabria. Vorrebbe una bella passata di Miccio de Boe in loco. Il Miccio de Boe in loco, intinto nell'aceto, perché fa più male, te lo ricordi? Cosa ne pensi tu, Leonardo, di questo sindaco che va in giro? Tu! Come stai usando il buono? Sono il sindaco di Assi, tira giù la mascherina, sono il sindaco, il cappellino, ma non lo so. Sono sempre azioni un po' dimostrative, secondo me, anche perché io credo che la maggior parte degli italiani, come dici sempre tu, poi si comportino bene. Certo, qualche eccezione c'è sempre, però non so se un'operazione un po' inquisitoria di questo tipo. Più che altro, davvero, io non ho mai visto in tanti anni una ricerca così spasmodica nei confronti di criminali, evasori fiscali. Tu perché non paghi le tasse? No, però adesso uno che ha speso magari il buono del comune in maniera un po' impropria, sì. Va bene. Salutiamo chi? Beniamino? Che ci saluta. Sì, è qui con me Beniamino, che sta giocando a soldatini qui. Ecco, sto giocando con i miei soldatini che avevo io da bambino. Mia madre li ha conservati e adesso lì a lui sta giocando con i soldatini piccoli, perché c'erano quelli piccoli e quelli invece di dimensioni normali. Io avevo gli Africa Corps. Sì, anch'io. Stupendo. gli Africa Corps. Va bene, vogliamo salutare Nicola Baboni, buongiorno, titolare di una storica farmacia Cernusco sul Naviglio, siamo in provincia di Milano. Baboni, eccoci, buongiorno dottor Baboni. Buongiorno, mi piacerebbe darci del tu. Sì, va bene. Ciao Nicola. La allora... voce mi è talmente familiare che mi viene, mi sarebbe come dare del lei a mio fratello. Guarda, non... Stupendo. Allora, lo trovate così, Nicola Baboni, lo trovate su Google, giusto perché così la gente capisce, come il farmacista che è stato multato perché non aveva i guanti. E come mai guanti, non avevi i guanti? Non avevo i guanti, quelli da dare a disposizione alla clientela, perché questa ordinanza del governatore della regione Lombardia ha imposto a un certo punto la presenza di igienizzante e guanti, quelli in PVC, quelli che normalmente sono a disposizione della clientela nei supermercati per prendere la frutta e la verdura, per intenderci. E sono guanti che assolutamente sono introvabili, perlomeno nei nostri normali canali. Ma si può, scusate, adesso chiedo, cioè in base a che cosa danno una multa? Ti danno una multa perché tu non hai da dare i guanti ai clienti, cioè se anche fosse finita la fornitura, per esempio? Perché appunto c'è questa ordinanza della Regione Lombardia, ma noi come farmacisti siamo stati in qualche modo sollevati da questo problema, perché qualche giorno prima avevamo ricevuto una circolare di Federfarma che raccontava appunto che era stato risposto al governatore Fontana che nella impossibilità di trovare i guanti avremmo comunque garantito la presenza dell'igienizzante. E siccome noi non siamo un negozio che decide di stare aperto, noi siamo un presidio sanitario che deve stare aperto, e ovviamente non siamo sanzionabili, insomma. La polizia locale ha fatto il suo ingresso in farmacia, ha fatto i suoi controlli, mi ha detto che mi mancano i guanti, gli ho fatto notare la circolare, mi sono appellato al buon senso, la multa è arrivata lo stesso. È arrivato. No, tra l'altro Nicola so che ci ha anche scritto, mi ha scritto per dire e io ho ricevuto anche delle critiche da farmacisti quando ho detto i prezzi delle mascherine, ma io non c'è, ho subito detto dall'inizio che era una questione, un problema di filiera, no? Però di fatto il cittadino che debba tirare fuori più soldi perché il grossista, il trasportatore, la materia prima costa troppo, di fatto il cittadino nell'ultimo presidio che trova, cioè il farmacista, cosa fa? Si sfoga col farmacista e dice vabbè, ho capito. Questo senz'altro, più che ultimo mi piacerebbe dire che siamo il primo presidio, perché siamo talmente diffusi, capillarmente diffusi, sono 18.000 rotte farmacie su tutto lo stivale, dal piccolo borgo alla grande città non ci siamo. Adesso da voi le mascherine si trovano, per esempio? Sono disponibili? Allora, noi abbiamo fatto una scelta molto drastica, abbiamo deciso di tenere le mascherine lavabili, ci siamo sottratti al far west delle mascherine, per cui non vogliamo più vendere mascherine usa e getta, visto che stiamo in ballo delle settimane, se non dei mesi, con queste mascherine. Abbiamo trovato una ditta che si è riciclata, ce ne sono state tante, è una ditta che faceva abbigliamento, attrezzatura per motociclisti, si è riciclata, fa mascherine in tessuto tecnologico lavabili fino a 30 volte. Però giusto per capire, quanto è aumentato il prezzo medio di una mascherina? Ovviamente perché l'abbiamo spiegato una volta, cioè la materia prima è aumentata del 300%, il trasporto è aumentato in maniera esponenziale, però di fatto le percentuali non le so, il mercato è impazzito. Io credo che la maggior parte di noi farmacisti abbiano assolutamente subito questa cosa, e dopodiché magari qualcuno, qualche collega magari più con ingenuità che non con malafede ci è cascato, nel senso che riceveva, siccome c'era la pressione della gente sulle farmacie per la ricerca di queste mascherine, e a un certo punto per rispondere alla pressione ha accettato proposte di mascherine a prezzi folli. Per esempio, vedi qua, Maurizio ci scrive da Vicenza, 10 euro per una mascherina FFP2, è un prezzo adesso di mercato? Ma no, sì, è un prezzo folle. A te quanto le danno? 8? A noi le propongono 8 euro, con pagamento anticipato. Anticipato all'ordine, per cui il minimo d'ordine 1.000 mascherine, io li trovo questi soldi da mettere lì. Certo. Un collega che ha pagato 10.000 euro per delle mascherine che non sono mai arrivate, sono arrivati scatoloni pieni di stracci. È una truffa, quella è una truffa sicuramente. No, comunque. Dai, chiaro, quindi devi pagare anticipato almeno 1000 mascherine, quindi 8000 euro. Su questo c'è il ricarico di 2 euro, ma c'è da pagare i dipendenti, l'affitto, insomma. No, infatti, io non voglio lamentarmi, lascio la parola ai calciatori. Il margine serve per pagare la multa che ha ricevuto, secondo esatto, me. No, beh, esatto. La multa è solo 280 euro e non credo la pagheremo. C'è anche Federfarm di Milano che mi sta dando una mano. Leonardo Manera è così: quando trova una piccola feritina, infila un punteruolo e gira. E lo stima, sì. E lui è così: gli piace un po', come si dice, allargare le ferite. Perché abbiamo fatto ricorso e credo che lo vinceremo, insomma, perché appunto non siamo sanzionabili per questa cosa. Ma quello che ho capito, che poi ha scatenato tutto questo cancan, ed è il motivo poi finale per cui sono qua, è perché io ho preso dalla rabbia al momento della multa, l'ho fatto un post su Facebook, che poi ho condiviso in un gruppo di farmacisti, e lì ha trovato una risonanza incredibile, perché insomma io sono un povero tappino che di solito a pochi like e quasi nessuna condivisione, all'improvviso mi sono ritrovato con 3.000 condivisioni. Esatto, come il farmacista che un po' si arrabbia. Ho trovato terreno fertile nel malumore dei farmacisti, che insomma sono sentiti un po' tutti abbandonati. No, ma è chiaro, io ieri sono dovuto entrare in farmacia, devo dire che conosco i farmacisti perché sono sotto casa mia, e gli ho detto massima solidarietà, perché comunque sono lì a tenere un presidio aperto, sono obbligati 24 ore su 24, alcuni, o comunque tante ore al giorno. Entrano persone probabilmente anche con presintomi eccetera, e quindi non è facile. Nicola, io devo andare al traffico e ti ringrazio moltissimo. Nicola Baboni, titolare a Farmacia Cernusco sul Naviglio Milano, andiamo al traffico perché poi c'è una grande sorpresa e parliamo di depressione di calciatori con un calciatorone. Traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qua, la depressione dei calciatori, la depressione, chiediamola al bomber. Devo dire che dovresti un po' scusarti con lui, perché prima hai detto con un calciatorone, che era un po' una presa in giro, invece chiedi scusa al bomber. Chiedo scusa ad AP9, Antonio Picci, il bomber della Vigor Trani. Antonio, ciao, come stai? Ciao Leo, ciao Ale, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per tutto, grande AP9, la depressione, sei depresso? Ti chiedo subito, cerchiamo di non esserlo, perché poi avendo due figli logicamente cerchiamo di trasferire un po' di positività comunque sicuramente ai bambini e a loro, che ne sentono un po' più di tutti di questo momento, quindi nonostante comunque il momento è difficile, siamo tutti sulla stessa barca, a parte di tutti, calciatori e no, cerchiamo di essere molto positivi e cerchiamo di non cadere in questa parola. Che no, perché ho sentito che ci sono dei calciatori che rischiano la depressione, ma perché non si vuole ironizzare. Ma hai capito perché sta mania del calcio? Hai sentito che rinviano tutto, le Olimpiadi, adesso l'Oktoberfest, invece la Serie A vuol giocare. Ma perché? Tu hai capito? Sicuramente ci sono degli interessi altissimi dal punto di vista economico e si cerca di Le Olimpiadi non c'hanno gli interessi economici, anche sì, le Olimpiadi. Però il calcio in Serie A hanno bisogna dare dei verdetti, bisogna dare una continuità, bisogna dare dei verdetti sul campo per farsi di continuare. Invece per quanto concerne le Olimpiadi, sono dei verdetti che poi si stipuleranno nell'anno prossimo, fermo restando sì. che è chiaro che bisogna sempre mettere al primo posto la salute di tutti, la salute dei tesserati, dei tifosi, degli appassionati, quindi poi sarà agli esperti, sarà ai virologi, sarà ai dottori esperti dire quando si potrà continuare con tutte le sicurezze sanitarie del caso, che purtroppo sono in quelle categorie al momento si possono permettere. Se parliamo di una continuità di calcio rapportata alle mie categorie, ecco, in questo momento diventa molto complicato riprendere. Chissà P9 come si allena a casa, tu te lo vedi, Leonardo, te lo immagini, corre io per credo il corridoio, che sì, un po' non di, non so dove hai una casa col giardino dove puoi correre, fare attività fisica. Mi sto dando le testate al muro al momento, perché... colpo di testa di Picci, pom! Allora, ogni tanto vede dei cross dalla fascia, lui ideali, e pom! Dà delle testate agli stipiti. Ma davvero, quindi hai due figli, prima, giusto? Esatto, ragazzi, tutto quello che prima era la normalità adesso ce lo sogniamo la notte. A volte di fare una partita, di fare un allenamento. Come va la vita matrimoniale in questo momento di convivenza forzata? C'è crisi? Fai fatica? Durissima, perché no, ma è dura, ha ragione, è dura, perché se prima i primi problemi da 1 a 10 erano 3, adesso diventa di 7 e mezzo, tutto un trauma. Sei sull'orlo della separazione, ha messo la base amara. Sei sull'orlo della crisi matrimoniale, pensa che ci sarà possibilità. Non ci lasciamo più, questo è poco ma sicuro. Ma non è detto che non vi lasciate adesso, anzi io la vedo dura rimanere insieme, inutile negare. Smettila. Antonio Picci sogna lo spogliatoio, il profumo della doccia, il profumo dell'olio, quello che si mette sui muscoli, sogna anche, non so, un tacchetto sui tendini di uno stopper di una squadra avversaria, anche quello. Manca tutto, e manca poi l'adrenalina, tutto ragazzi, tutto. E poi il gol, manca il gol, manca. Senti, avevamo chiamato il bomber Picci per contrastare la depressione, invece sta aumentando. Lo stiamo deprimendo, che è un problema reale. Lo stiamo deprimendo. No, bomber, tieni duro. No, ovviamente cosa stiamo. Succede? La Vigor Trani come funziona adesso il campionato? Viene congelato? Parlando un po' di cose positive, vabbè, anche lì bisognerà decidere, non vorrei essere poi nei panni di coloro che dovranno decidere appunto i verdetti senza aver terminato le proprie stagioni, perché è una situazione molto molto complicata in tutte, soprattutto dove sicuramente non si riprenderà il campionato, quindi dare dei verdetti senza avere la conclusione dei campionati diventa complicato. Facciamo così, non so, chi ha il giocatore più famoso di categoria viene promosso a P9, in quella categoria le beneficerebbe Trani. Però parlando appunto di Trani, di cose belle, si preannuncia un interessamento di un imprenditore importante appunto per la società, quindi chissà che possa veramente, dopo questa diciamo un momento un po' così complicato, possa nascere per la città, per la piazza di Trani, delle cose veramente belle. Si parla di un interessamento di un imprenditore importante. Stiamo a vedere, grande AP9, il nostro AP9, loro hanno CR7, cosucce veramente, mentre noi abbiamo AP9, AP9, grande Antonio Picci, un grande abbraccio, perché a presto, è arrivato credo a casa di Leonardo Manera, qui è arrivato un avvocato matrimonialista, se hai bisogno di un avvocato matrimonialista io te ne posso indicare qualcuno. Ho capito che la vita matrimoniale del bomber Picci ormai smetti. Invece qui è arrivato credo a casa tua un mago, spero di non sbagliare, Il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup, buongiorno a tutti. Allora, in questo periodo con le scuole chiuse ho avuto un boom di prenotazioni per fare il clown in smart working con le videochiamate. Il clown Neronello, appaio sullo schermo del loro computer, lancio dei coriandoli, faccio subito un indovinello per farli divertire i bambini. Per esempio, bambini, sapete qual è l'animale vietato ai minori? È l'uniporno. Quando ho detto l'uniporno. Esattamente. Angelica, che qui a fianco l'aveva indovinato forse. Sento lo scetticismo di quella bambina maledetta che non ha apprezzato la mia battuta dell'uniforno. Maledetta bambina, torna immediatamente a fare i tuoi compiti nella tua cameretta. Allora, Quando ho detto questa battuta i bambini non hanno riso, come tua figlia, e uno ha cominciato a insultarmi. Allora gli ho detto: bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Accendi il ferro da stiro, aspetta che diventi caldo e prova a vedere se rimane l'impronta sulla mano. Ma no! Stava per succedere l'irreparabile. Quando è rientrata la madre, mi ha detto: Neronello, lascia stare lui e dedicati a me. Approfittiamone, intanto che mio marito è rimasto fuori sul balcone a fare il flash mob con i tamburelli. Abbiamo iniziato a scambiarci messaggi bollenti per un po', ma ormai stava scadendo il tempo, così l'ho salutata e ho raccontato ai bimbi una delle mie favole, le favole del clown Nerunello, l'amico dei bambini. C'era una volta un regno sempre baciato dal sole, governato da un sovrano che si trovò improvvisamente senza il suo fedele consigliere. Il re si rivolgeva a lui per ogni cosa e gli aveva affidato l'intera gestione delle sue ricchezze. E così, quando il consigliere ormai anziano morì, il re mandò i banditori alla ricerca di un sostituto. Il giorno stabilito i candidati si presentarono da ogni parte del regno. Il sovrano li condusse personalmente nella stanza del tesoro, dove i diamanti brillavano e le monete d'oro riempivano i forzieri. Li chiuse dentro e li lasciò soli. Dopo un'ora richiamò gli aspiranti consiglieri al suo cospetto. Tutti avevano fatto grandi calcoli e proposte di gestione patrimoniale ed erano pronti a sostenere il colloquio. Ma il re batté le mani, fece entrare i musicisti di corte e disse: «Ed ora ballate!» Stupiti dalla richiesta, i candidati si guardarono e rimasero immobili. Solo uno di loro si dimenava come un tarantolato, saltellava di qua e di là, rideva e chiuse la sua danza con una spaccata strabiliante. «Voglio lui!» disse il re. «Sarai tu il mio contabile, o giovane!» «Io? E vai, sulle mani, per ortodonzio!» rispose il ragazzo scatenando la folla. «Siamo energia cosmica, siamo nati per ballare!» Il gran ciambellano era incredulo. «Sire, ma come mai questa scelta?» Gli altri candidati pensano solo a lavorare. Che vengano decapitati, quest'uomo invece è scoordinato, ma divertente. E così Ortodonzio, che 2 ore prima dell'incontro aveva preso un cocktail di mojito e metanfetamine, diventò il consigliere di corte. Bambini, qual è la morale? Se fate bene il vostro lavoro con serietà ed edizione, morirete decapitati. Se invece pensate solo a divertirvi, magari con l'aiuto di qualche sostanza chimica, potrete fare un lavoro rispettabile e vivrete per sempre felici e contenti. No, Questa è la morale della favola del clown Neronello. No. Ti è piaciuta, guarda, bambino? Tantissimo. Beniamino. No, assolutamente no. Io contesto. Cacciate il clown Neronello non dalla porta ma dalla finestra. Non se ne può più. Vabbè. È andato via? L'abbiamo mandato? Sì, ormai via, mi sto allontanando. Ecco, si allontani e non torni mai più con le sue favole. Allora, signori, anche oggi la terza mezz'ora è andata e allora ci fermiamo qui. Vogliamo ricordare la mail 100.000@radio24.it. Caro Leonardo Manera, se sei riuscito a cacciare il clown Neronello dalla finestra, è il momento per concludere la puntata di oggi. Vai. Lo dice mio figlio.